Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di monete, ma parliamo anche di parole, parliamo di come viene affrontato il tema della moneta dalle banche centrali, dalle nostre custodi delle monete. E lo facciamo con Alberto Rioli. Buonasera Alberto Rioli. Buonasera. Alberto Rioli, una voce nota di Radio 24, è vice direttore del Sole 24 Ore e ha scritto un libro che si intitola Gli oracoli della moneta, edito dal Mulino. Gli oracoli della moneta chi sono, Alberto Rioli? Gli oracoli della moneta sono i banchieri centrali. La mia curiosità è stata quella di intrecciare il tema dell'uso della lingua e delle parole che diventano fatti. E mai come nell'attività dei banchieri centrali le parole diventano fatti, perché basta ricordare il Whatever It Takes di Mario Draghi, che ha cambiato il mondo sostanzialmente, certo. Ha cambiato il futuro dell'Europa e dell'euro e non solo dell'euro. E quindi questa curiosità mi ha portato a rileggere un pochino i tic, le espressioni usate nel passato recente e non troppo recente dai vari banchieri centrali un po' di tutto il mondo, e ho scoperto un po' di curiosità interessanti effettivamente. Ecco, quindi è una storia degli ultimi anni, degli ultimi decenni, soprattutto, anche se poi alla radice si va un po' ai tempi antichi, si parla di quando le parole erano qualcosa che derivava dagli oracoli, da questo anche il titolo, gli oracoli della moneta, cioè nell'antichità l'oracolo era colui che diceva il futuro, ma poi diceva il futuro in modo che si potesse interpretare come si voleva. Adesso le cose sono un po' diverse. Esatto, la cosa più interessante è questa, analizzare questo passaggio dall'idea dell'arte del banchiere centrale, come la chiamano appunto nel mondo dei governatori l'attività del central banking, dell'arte del banchiere centrale improntata all'attività mistica, perché questo è l'aggettivo che viene usato normalmente nel recente passato, vale a dire appunto un'attitudine oracolare di una comunicazione unidirezionale, possibilmente un po' misteriosa, vagamente esoterica, che fa parte di un linguaggio che solo in pochi comprendono e che i mercati devono poi declinare nell'attività reale di tutti i giorni, all'obbligo invece della trasparenza, che è po' l'attività del central banking dei nostri giorni. Quindi questo passaggio dall'idea mistica e oracolare all'idea della trasparenza e del farsi carico, diciamo così, dell'essere il più possibile divulgativi e spiegare ai mercati, e non solo ai mercati, perché a questo punto la platea si allarga di molto, è il segno distintivo di ciò che è accaduto nel recente passato, insomma nel cambio dell'attività del central bank. E questo, proprio analizzando l'uso del linguaggio, è molto diverso obiettivamente da come si parla oggi e come si parlava prima. Certo. Ecco, tra l'altro la prefazione di questo libro è di Tullio De Mauro, il grande linguista, che dice con gradevole scorrevolezza: chi legge è guidato a farsi un po' meno estraneo, un po' più partecipe al senso di discorsi che lo riguardano assai più di vicino di quanto si avverta comunemente. È partecipare, sia pure capendo soltanto, ma almeno capendo è importante. Quindi questa logica, appunto sottolineata da Tullio De Mauro, di farsi capire. Tra l'altro i banchieri centrali parlano sempre di più. Una volta il governatore della Banca d'Italia parlava il 31 maggio e il 30 ottobre per la festa del risparmio, e poi del resto dell'anno stava in silenzio. Adesso parlano molto più spesso, fanno anche interviste, fanno anche dei briefing con la stampa, ma è cambiato quindi anche il modo di fare i banchieri centrali, ma anche l'importanza forse della politica delle banche centrali. L'importanza della politica delle banche centrali in questo momento di mondo interconnesso e globalizzato è sempre più rilevante. Io credo francamente che i banchieri centrali, uomini e donne, sono certo gli uomini e le donne più potenti del mondo obiettivamente, perché effettivamente dalle loro parole, dalle loro scelte derivano poi cambi epocali e svolte importantissime nella gestione dell'economia di tutto il pianeta. E quindi però ecco, nell'ultima fase effettivamente il cambio di modalità comunicativo impone ai banchieri centrali il confronto delle conferenze stampa, per l'appunto, con i giornali e i giornalisti di tutto il mondo. Questo sposta completamente l'attenzione comunicativa dei governatori e un po' li spinge verso un nuovo linguaggio, che è un po' il linguaggio anche della politica. A volte sono importanti le battute, come abbiamo certo visto, la brevità e la concisione di un messaggio. A volte sono importanti anche le polemiche, ce ne sono state recentemente, anche non troppo tenute, diciamo così, discrete, anzi piuttosto esplicite, una cosa che prima non accadeva in nessun modo. Pensiamo che cosa faceva Montagu Norman, il mitico governatore della Bank of England negli anni 30, che ha teorizzato never explain, never apologize, cioè mai spiegare, mai scusarsi. Questo era il suo motto ed è stato un motto importantissimo che ha, diciamo così, improntato l'attività dei governatori per molti decenni. Oggi ovviamente siamo esattamente al contrario, spiegare tutto e se del caso scusarsi, ecco, come ha fatto Bernanke per esempio davanti al Parlamento, ha detto, Parlamento americano, ha detto un paio di volte che effettivamente aveva sottovalutato il problema delle bolle. Ecco, ma in questo non c'è il rischio di democratizzare un po' troppo un aspetto della moneta che appunto è riservata alle banche centrali, che per statuto quasi tutti i paesi hanno un'autonomia dalla politica, proprio perché la politica deve gestire delle realtà che può essere appunto penalizzante verso qualcuno e avvantaggiare qualcun altro. La moneta dovrebbe essere un bene di tutti, per questo la banca centrale è indipendente. Quindi questo scendere un po' nel consesso della discussione non può essere un po' un appannare anche il potere delle banche centrali? Il grande tema del nostro tempo è quello dell'equilibrio tra la sovranità monetaria e la sovranità politica, effettivamente, che oramai è un tema all'ordine del giorno, con spigolosità varie ovviamente, con polemiche anche politiche molto forti, soprattutto in Europa. Molto spesso Draghi ha detto la politica monetaria da sola non basta. E molto spesso il dibattito sulla necessità di cedere una parte della sovranità nazionale, per esempio in materia di politica fiscale e politica di bilancio europea, è un tema forte che divide molto i paesi che fanno parte dell'euro. E purtroppo questa situazione non ha ancora trovato una soluzione, ma è lampante nel momento in cui si analizza qual è il cambio di linguaggio. Il cambio di linguaggio diventa un cambio di sostanza, evidentemente questo è il grande tema del momento. Il problema è che ai governatori si chiede tutto, sostanzialmente c'è un'aspettativa enorme sul loro potere, che un po' rimane esoterico perché poi è legato alla moneta, alla capacità di fabbricare moneta, che è la cosa più alchemica e fascinosa del mondo. Quindi gli si chiede tutto, ma non possono fare tutto, e quindi il rischio è che, essendo poi obbligati alla trasparenza e a un linguaggio anche della politica, possono avere il contraccolpo delle polemiche e del dagli all'idolo, che è un classico. Anche perché l'economia è fatta sì di cose concrete, è fatta di monete, ma è fatta soprattutto di scelte e di aspettative. Le aspettative sono create non tanto dai gesti concreti quanto da quello che può essere la fiducia. Tra l'altro un capitolo del libro è proprio dedicato alla fiducia, al creare una fiducia per cui le persone possono spendere, le famiglie possono investire, le imprese possono creare appunto dei nuovi macchinari pensando al futuro. Quindi questa fiducia in fondo può essere molto basata più sulle parole, più sul fatto di creare una situazione in cui si possano avere dei risultati positivi in futuro, guardando in avanti, anche se, dice a un certo punto nel libro, in fondo quando si dice futuro già le prime due sillabe appartengono al passato. Esatto, è così. Infatti il gioco sulle aspettative è il cuore del cuore dell'attività del central banking. C'è una frase di Bernanke che è diventata paradigmatica per tutta l'attività dei governatori, cioè l'attività dei banchieri centrali è per il 98% parole e per il 2% azione. Evidentemente il gioco con le aspettative è decisivo per il governo dei tassi, e quindi per il governo del cambio, per il governo della moneta, per il governo poi degli equilibri complessivi delle bilance commerciali e non solo, insomma. E per non parlare poi del controllo dell'inflazione, quindi che incide sulla domanda, sugli andamenti dell'economia complessivamente intesa. Il gioco delle aspettative presuppone sempre una specie di rincorsa e di gioco io so che tu sai che io so, è un gioco a rimpiattino con i mercati, che è stato un classico. Il central banking tradizionale era quello che doveva stupire i mercati ed era l'attività classica di qualche decennio fa. Adesso questa cosa è un po' meno rilevante ed è molto più importante la disciplina della forward guidance, la chiamano così, di scuola americana, cioè delle aspettative future, del tracciato che bisogna creare, attraverso il quale accompagnare passo passo le aspettative del mercato, quindi con l'esigenza di spiegare passo dopo passo tutte le mosse che la banca centrale si ha in animo di fare. Certo. Quindi fidatevi di noi, che noi sapremo fare le cose e sapremo farle in maniera razionale, in maniera positiva. Però C'è un punto del libro in cui si dice che se si ha bisogno di un trapianto di cuore, forse il cuore di un vecchio banchiere centrale potrebbe essere utile, perché non ha mai funzionato. È una barzelletta, diciamo così, che viene attribuita a Draghi, che ogni tanto in qualche raro momento conviviale sembra che abbia raccontato in qualche occasione. è appunto quella di un giovane che deve avere un trapianto di cuore e il medico gli dice ce n'è uno di un tuo coetaneo e ce n'è uno di un banchiere centrale 75enne, quale preferisci? E il giovane per l'appunto dice naturalmente il banchiere centrale perché è un cuore che non è mai stato usato. Questo serve a significare quanto debbano essere fredde le scelte e quanto debbano essere improntate a razionalità massima le scelte dei banchieri, e quindi che non possono affidare nulla al sentimentalismo, alle emozioni, ovviamente. Ecco, però sono uomini o anche donne, appunto, perché il banchiere centrale americano adesso è una donna. C'è una differenza nel fare il banchiere, nel parlare al mondo tra i banchieri e le banchiere. Janet Yellen è probabilmente la donna più potente del mondo, effettivamente, e nel suo gestire appunto il gioco con le aspettative ha creato questa vulgata del new normal, cioè la nuova normalità, che peraltro è una normalità di massima ambiguità, perché i mercati rimproverano alla Yellen appunto di essere eccessivamente ondivaga nei messaggi che dà per governare le aspettative. Deve innalzare i tassi, ma più volte ha detto che lo farà. Varie volte la Fed ha preannunciato imminenti rialzi, poi ha cambiato rotta, insomma, e quindi i mercati sono un po' incerti su questo. È il metodo ma comunicativo della Yellen. Ma forse fa parte della Yellen anche quello del creare delle aspettative e poi comunque di ritornare alla realtà. Esatto, beh, sicuramente. E non c'è dubbio che il governo delle aspettative in questo momento, soprattutto per quanto riguarda i tassi americani, è molto difficile, anche perché la Yellen ha una formazione prettamente di provenienza dell'economia reale. Per lei è molto importante il parametro del mercato del lavoro e non è sufficiente il mercato del lavoro così come è. Al contrario di quanto avviene in Europa. Ecco, sono tanti modi di fare il banchiere centrale. Nelle 248 pagine di questo libro ci sono tanti spunti per riflettere appunto su questa difficile materia, anche su questa arte, perché tu chiami anche l'arte del banchiere centrale, il fatto appunto di dover gestire un bene così importante come la moneta. Complimenti a Alberto Ioli per quest'opera, grazie mille di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. E abbiamo parlato del libro di Alberto Ioli, Gli oracoli della moneta, edito dal Molino, sono 248 pagine per 16 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.